Che bella cosa sei quando mi guardi, che bella cosa sei quando mi parli, arrendere mi fai, e forse non lo sai, che bella cosa sei. Che dolce sogno sei quando mi baci, morire mi farai, tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei e forse capirai che bella cosa sei. Ti stringo un poco a me. E tu tremi, ti sento sospirare, t'abbandoni così senza parlare, chiedi un bacio e Dio mi perdo in te. Che bella cosa sei quando mi guardi. Che bella cosa sei quando mi parli, arrendere mi fai, e forse non lo sai, che bella cosa sei. Che sogno sei quando mi baci, morire mi farai, tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei e forse capirai che bella cosa sei.